di là, voglio dire, delle presenze. Sono particolarmente contenta di poter presentare e moderare questo incontro su una esperienza del Tribunale Permanente dei Popoli particolarmente, diciamo così, storica. Uso questo aggettivo, che se non sbaglio è l'aggettivo usato da Livio Pepino, sulla sentenza, ma ancora prima della sentenza, sul fatto che una fetta di società civile italiana si è diciamo appellata al Tribunale Permanente dei Popoli per trovare una sponda di parola, una sponda di uno spazio di democrazia vera dal basso, laddove forse altre sedi, altri luoghi, questa sponda in un paese che si denomina democratico non c'erano. E appunto la comunità della Valsusa, che come tutti sappiamo è da anni impegnata, lungo tempo impegnata in questa tutela, in questa azione di tutela, di protezione della sua terra, della sua della comunità stessa, dell'identità, dell'ambiente in quella zona, che è zona di passaggio già di, come dire, percorsi ferroviari poco utilizzati, ma che oggi è uno dei tratti della Torino-Lione, insomma, comunque di questa linea di che dovrebbe connettere l'Europa fino a Vladivostok, che poi sappiamo ha delle linee di interruzione voluta dal governo, dall'Europa e dal governo italiano. La cosa interessante, e naturalmente poi lascio la parola alle persone che sono state direttamente coinvolte, che sono qui stasera in questa esperienza del Tribunale Permanente dei Popoli, è che laddove abbiamo ascoltato decine di programmi radiofonici e di interviste, abbiamo letto decine di interviste sulla opportunità appunto di fare questa linea ferroviaria, là dove ce n'erano altre, del senso, no, dell'utilità di questo progetto nella sua attuazione adesso, quando poi invece è stato concepito in un altro scenario, in altri contesti, il Tribunale Permanente dei Popoli ha voluto occuparsi di un aspetto particolarmente interessante e rilevante, cioè lo spazio della democrazia che c'è nella decisione e nella poi attuazione e realizzazione di questi progetti. Ed è interessante perché lo accennavamo anche l'altra sera quando abbiamo parlato qui con la figlia di Berta Cáceres della tutela dell'ambiente in altre parti del mondo, anche in Italia, anche in Europa, ma mi concentro soprattutto a questo punto dall'Italia, nel caso della Valsusa, abbiamo visto la criminalizzazione delle comunità, cioè tutta una serie di fenomeni che in genere si diagnosticano, si analizzano nel sud del mondo e che invece, come dire, nella fattispecie, in questo specifico caso, hanno esattamente tutti gli stessi connotati anche nella, diciamo, in quella che dovrebbe essere la culla dei diritti umani o comunque la bussola dei diritti umani, cioè l'Europa. Ecco perché ha particolare significato, significanza il fatto di discuterle questa esperienza, di discutere quella sentenza che ho trovato molto bella, soprattutto l'idea di diventare noi sentinelle, no? Questo concetto del sentinellaggio attivo, anche questo poi verrà elaborato, che è una responsabilità di tutti noi cittadini. Ricordo che quando è uscita la sentenza l'anno scorso mi ritrovavo a Caserta a partecipare a un corso di circa 500 formatori, un corso per formatori, e è diventata improvvisamente la stessa sentenza circolata la sera prima, proprio frutto di un dibattito proprio su questo concetto dell'essere sentinelle, no? Di cosa voglia dire essere sentinelle, del dovere di essere sentinelle. Mi fermo, perché se è storica bisogna lasciare la parola a quelli che questa storia hanno fatto, e sono contenta di aver rincontrato per l'occasione il professor Umberto Allegretti, che insomma dei miei tempi di Manitese è stata una persona che ho bazzicato molto negli anni passati, che è giurista dell'Università di Firenze. Abbiamo Tommaso Montanari, che è docente di storia dell'arte qui all'Università Federico II di Napoli, Livio Pepino, che è stato appunto uno dei maggiori protagonisti in quanto presidente del Controosservatorio della Valsusa, e Franco Ippolito, che ci racconta anche evidentemente poi tutta la dinamica interna al Tribunale Permanente dei Popoli. Do la parola al professor Allegretti. Vi chiedo per favore di parlare dentro il microfono, perché stiamo registrando questa serata. Pertanto tutti coloro che hanno deciso di non venire o non hanno potuto venire questa sera poi potranno invece avere l'occasione di riascoltare in podcast il nostro dibattito. Prego. Mi dà sempre favori e sfavori. Esatto. Tempo? Ma facciamo 15-20 minuti? Sì, sì, ok, sì, poi sì, così. Mi basta lo stesso. Perfetto, grazie. Sì, io alla questione specifica della Val di Susa, sulla questione specifica della Val di Susa, sono entrato soltanto quando sono stato chiamato a integrare in quella occasione il Tribunale dei Popoli. Sono stato evidentemente molto colpito da tante cose, dallo spirito della gente, dallo spirito della valle, non so come dire, anche dal punto di vista paesistico, che avevo percorso forse due o tre volte, ma insomma non la conoscevo bene, sedimento archeologico del, non mi ricordo se 2000 o 3000 avanti Cristo, calpestato dai cingoli che erano lì evidenti delle macchine dei carabinieri, e insomma da tante cose, poi dalla partecipazione a Torino della gente, poi quando siamo andati a promulgare, diciamo, la sentenza a, come si chiamava, insomma, quindi sono stato molto colpito, è stata per me una cosa molto positiva, che ero portato, per le mie esperienze sono portato a vedere in un quadro più generale, che del resto è qui sottolineato dal titolo Grandi opere di democrazia. Ecco, insomma, infatti anche per il mandato ricevuto da Ippolito attraverso quella decisione che diede inizio, noi non dovevamo occuparci solo della Val di Susa, ma la Val di Susa era un simbolo e un esempio molto chiari di un fenomeno molto più generale, che è quello delle grandi opere che, appunto, fermamente volute dalla classe politica, dalla classe imprenditoriale, eccetera, spesso, non dico sempre, ma insomma spesso, deformano il territorio, lo violentano e così via. Anch'io uso, stando a Firenze, uso una grande opera tutti i giorni, che è la Napoli-Torino, e ne apprezzo i vantaggi. Ci sono evidentemente delle grandi opere positive che hanno, anche se non positive in tutto, per esempio il tunnel sotto Firenze sarà un grosso disastro, ma poi ne parlo un altro momento, è chiaro che bisogna distinguere. Però in genere l'idea di grande opera, non parliamo poi del Ponte di Messina o di altre cose del genere, di cui purtroppo si è ripreso a parlare in questi giorni da parti autorevoli, ecco, insomma, sono spesso nefaste per l'equilibrio ambientale, per l'equilibrio sociale delle popolazioni, per l'identità dei luoghi, eccetera. E quindi il tema mi trova estremamente sensibile nei suoi termini generali. Poi lì a Torino erano presenti rappresentanti di paesi molto diversi, dalla Francia alla Colombia, per dire così, e quindi sia nel tribunale che, insomma, si è parlato del Messico, eccetera, e quindi, ecco, le cose erano più vaste che non la sola questione della Val di Susa. Ed è questo che mi prenderei la libertà di commentare brevemente questo aspetto, di commentare brevemente ora, perché appunto queste grandi opere decise, fra l'altro, come una delle soluzioni per la crisi, della crisi economica, ma figuriamoci se sono una delle soluzioni della crisi economica, hanno un lavoro, sì, ma un lavoro temporaneo e che poi ha tanti aspetti, ha tanti altri riflessi negativi. Però sapete che vengono esaltate non solo in Italia ma dall'Unione Europea, eccetera, come strumento per eccellenza della ripresa economica, mentre potrebbe essere dimostrato facilmente dagli economisti e dai non economisti, e dall'uomo che ha intelligenza, fanno il contrario. La verità è che in Italia c'è una grande opera da fare, una grande opera, di cui un pochino si è ripreso a parlare, per fortuna, in questi giorni, ma raramente si parla. Questa grande opera è l'opera della manutenzione territoriale complessiva, che comprende evidentemente la sismica. Siamo un paese che per tre quarti, se non di più, è afflitto da terremoti che si producono ogni 4-5 anni e che continuano a fare molte vittime, anche un terremoto piccolo come quello di Amatrice, che altrove in Giappone o negli Stati Uniti avrebbe, sì, creato qualche danno, ma nulla di più. Morti, la sismica, poi non parliamo di tutti gli aspetti idrogeologici, che sono forse quelli più notati, più indicati, poi i beni culturali e la loro miserabile condizione in cui spesso si trovano, e poi l'edilizia scolastica e in genere tutto ciò che attiene alla cultura. Ecco, insomma, veramente la grande opera di manutenzione del territorio, di cura del territorio, ecco, perché gli italiani sono poi orgogliosi in genere, io parlo da fiorentino ormai da 32 anni, non c'è città orgogliosa come Firenze della sua bellezza, eppure non equivale alla cura, né alla Sorge tedesca, né a qualunque altro nome che si vuol dare alla preoccupazione reale, genuina, per la manutenzione della città e per la sua vivacità attuale, perché vi assicuro che insomma non, proprio è trascurata completamente una città bellissima come Firenze, e questo vale anche per altre, insomma, forse meno per alcune, di più per altre, evidentemente non parlo di Roma, ma insomma di questo sapete molto più di me, ma insomma ecco la cura del territorio, ed è venuto fuori adesso questa idea, è un'idea, non è un progetto evidentemente, della Casa Italia lanciata da Renzi, che prevede questi 5 settori che ho nominato prima, forse ne ho messo uno, insomma sapete quali sono, questi 5 settori che dovrebbero essere coordinati da un nuovo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, naturalmente, che non è detto che sia poi la sede elettiva, ma potrebbe avere dei vantaggi di coordinamento, anche se poi la vocazione dovrebbe essere del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle Infrastrutture, ma insomma comunque questo è un problema, se volete, minore. Ecco, il problema è che appunto, se alle parole seguiranno i fatti, entro, mi pare, 12-18 mesi, è stato detto guardando anche su internet le pronunce su questa idea, ripeto, che non è un progetto, che non è detto che si realizzi come tante cose in Italia, ecco, però di per sé è allettante come idea, nel senso che appunto metterebbe al centro quest'opera, che poi un altro aspetto tutt'altro che secondario, quest'opera sì che darebbe lavoro, molto più che non le grandi opere, che se danno un lavoro lo danno temporaneo, ha detto 100.000 per quanto tempo, ha detto Renzi del Ponte di Messina, ma si tratta di dare un lavoro abituale e di riqualificare le imprese, questa è una cosa che nessuno ancora ha detto, riqualificare le imprese, le imprese di costruzione, dico, dalla operazione sul nuovo alla operazione, non che non ce ne siano alcune, ci sono alcune, ma sul restauro, la ripresa e la in tema di sismica, l'adeguamento o almeno il miglioramento degli edifici perché resistano ai terremoti, e insomma tante cose che veramente hanno un senso profondo anche nel dare lavoro che potrebbe prendere perfino per esempio gli immigrati, perché siccome gli italiani poi non lo vogliono fare o non lo possono fare spesso, perché stiamo continuando a decadere demograficamente, allora ecco che abbiamo davvero bisogno degli immigrati. La Merkel l'ha capito meglio di noi quando ha accettato un milione di, adesso poi ha ridimensionato alcune cose, ma insomma un milione di prescelti siriani, naturalmente, perché ritenuti migliori che non gli africani o altri, ma insomma li ha prescelti come possibili immigrati nel paese, e in parte si io che vado spesso in Germania per ragioni, perché ho un pezzo di famiglia in Germania, vedo insomma quanto è possibile e necessario che ci siano cose di questo genere, come vedo in Portogallo, come altro luogo dove sono radicato familiarmente, vedo in Portogallo come vengono utilizzati, cosa che non si fa in Italia, i fondi strutturali europei, tutti i tetti di Oporto, la grande città che stava decadendo, ma i tetti gli edifici di città minori come la storica Guimarães, la prima la prima capitale del Portogallo nell'XI-XII secolo, oppure anche Lagos, il centro di partenza dei naviganti nel 400 per le grandi scoperte, ecco, che hanno utilizzato il denaro europeo per dare opera. Poi che il Portogallo stia male, che abbia i problemi che abbiamo noi e qualcosa di peggio anche, però vi assicuro la serietà che vedo, ecco, nelle operazioni che vengono lì compiute. Ecco, c'è quindi una grande opera. Noi dobbiamo stare non solo su versante negativo di critica alle grandi opere, ma di porci, io adesso l'ho scritto per Rocca, quella rivista della Procivitate Cristiana, che insomma non è l'ultima, perché pare che abbia 3.000 abbonati e va nelle scuole, eccetera. Ho scritto questo in un articolo che ho consegnato stamattina. Ecco, questa grande opera di manutenzione, di vita, di rivitalizzazione di un territorio di cui conosciamo tutti i meriti, comprese, ecco, il quinto settore che prima non ho elencato, sono le periferie, evidentemente le periferie costruite dagli anni 50 agli anni 80, 90, che hanno anch'esse bisogno di essere ormai riprese, riqualificate nell'intimo. Ecco, non vado per le lunghe, ma voglio dire che dobbiamo essere molto, secondo me, avveduti anche nel sostenere che cosa vogliamo al posto delle grandi opere. Ecco, la realtà è che vogliamo una grande opera. Secondo me dobbiamo volere una grande opera, che non esclude poi alcune grandi opere che le facciano da supporto da contorno, dove ne è dimostrata la necessità e dove sono fatte con criterio. Ma insomma dobbiamo, come dire, andare sul positivo e sostenere con la necessità che in Italia si metta mano, diciamo, veramente con un lavoro, se no i nostri giovani continueranno a fuggire. Ed ecco, noi poi ci allarmiamo perché gli inglesi hanno minacciato l'altro ieri che la premier inglese, peggio della Thatcher, ha minacciato che caccerà via, quasi che caccerà via anche quelli che ci sono. Prima non l'avevano detto, avevano detto che non ammetteranno, che ammetteranno con difficoltà. Ieri al congresso di Birmingham è venuto fuori anche questo, invece. Oggi l'ho controllato anche su altri giornali stranieri e ho visto che c'è molta preoccupazione, e la Merkel in questo caso ha fatto molto bene a reagire, ha reagito duramente, e sentivo la televisione all'una prima di venire che Juncker e Hollande sono andate dietro su questo, hanno ripetuto la stessa cosa, che cioè non si può pensare che l'Inghilterra esca dal continente europeo, esca dall'Unione Europea, diciamo, avendo addirittura privilegi in più, Norway Plus, come vorrebbero loro, o comunque gli stessi privilegi di chi sta in Europa, e però eliminando, cioè creando, rimettendo i visti, eliminando l'afflusso di lavoratori stranieri, lei che poi ha bisogno nei suoi ospedali, perché anche questo è provato, di lavoratori italiani, di infermieri, di medici italiani, per esempio. Ecco, insomma, io penso che il tema delle grandi opere ce lo dobbiamo portare veramente dietro, con forza, producendo anche le parti positive del discorso, e non soltanto la critica, che a volte è più facile, che può colpire di più, ma insomma c'è qualche cosa di più della critica, che è l'apporto ad una visione diversa del paese e del suo avvenire. Ecco, quello che negli anni, io nel mio libro di storia costituzionale ho scritto proprio questo, che negli anni dai 50 ai 70, 80, agli 80, siamo stati presi dalla furia del presente, in tutti i settori, da quello finanziario a quello territoriale, il paesaggio svisato, le coste costruite e così via, e le grandi periferie delle città, e intanto lasciavamo decadere i centri storici, lasciavamo decadere tutto quello che di buono il passato ci aveva legato, diciamo, e questo, ecco, io mi sento di che questa debba essere la critica che dobbiamo fare alla storia dell'Italia democratica, più ancora che non la storia del terrorismo, la storia dell'limitazione alla libertà, d'accordo, ci sono anche queste cose evidentemente, ma la storia della scervellatezza, della scervellataggine con cui non abbiamo badato a che cosa stava maturando per il futuro. Perciò siamo poi stati gli ultimi nella globalizzazione e non siamo riusciti a trarne profitto, perché non, in realtà non eravamo preparati. Ecco, scusate se forse a qualcuno può essere apparso che io abbia deviato dalla linea principale del discorso. Io non lo credo, credo che questo sia il nostro compito di cosiddetti intellettuali, insomma, di produrre, ecco, anche proposte positive. Grazie professore Allegretti. No, non credo affatto che abbia sviato, anzi credo che proprio partendo dall'idea dell'insediamento archeologico distrutto dai cingoli, no? Che è il passato, se questo è il nostro trattamento del passato, quale futuro possiamo immaginare, no? Rispetto anche appunto a questo paradigma delle grandi opere che viene spesso nel gergo della politica e del anche giornalistico, ma anche di coloro che le propongono, viene definito come il grande sogno, no? Noi le Olimpiadi, il grande Roma ha bisogno di un grande sogno, come se invece il sogno di Roma, il grande sogno di Roma non dovrebbe proprio essere quello di rimettersi un po', dire, in pace con se stessa e riacquisire anche il senso della propria bellezza, ma nella realtà viva della quotidianità, della vita anche delle persone. Quindi lascio la parola a Tommaso Montanari per ragionare ulteriormente di questi aspetti. Lei tra l'altro appunto conosce la Valsusa, non so se, qual è stato il suo coinvolgimento in questa vicenda e anche come il tribunale, cioè questa sentenza può essere usata anche per uno storico dell'arte. Non ho capito. Di calpestare il filo che creava qualche problema. Oh, mamma mia. Grazie alla Fondazione, grazie per questo invito a discutere. Mi scuso se a un certo punto dovrò abbandonare la discussione, ma devo essere a Firenze per un'iniziativa referendaria, per cui a un certo punto dovrò lasciarvi e me ne scuso fin d'ora. Dal punto di vista dello storico dell'arte, e cioè di chi si occupa non solo di singole opere d'arte, ma di contesto, di paesaggio, di territorio, la cosa più importante l'ha detta il professor Allegretti e su questa sono totalmente d'accordo. L'unica grande opera che ci serve è l'unica che non si fa, e cioè la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza del territorio. Io volevo provare a sottolineare quello che a me sembra l'aspetto più attuale, in senso proprio stretto, di questa sentenza, collegandone alcuni passi chiave al dibattito in corso oggi e a un aspetto di cui non sento assolutamente parlare, della riforma costituzionale su cui ci apprestiamo a votare. E il Tribunale, leggo brevemente, riconosce tra i diritti fondamentali degli individui e dei popoli quello alla partecipazione ai procedimenti di deliberazione relativi alle stesse opere. Questo diritto, oltre a essere espressione del diritto di partecipazione degli individui e dei popoli al proprio governo, come stabilito nella Dichiarazione Universale dei Diritti e nel Patto sui diritti civili e politici, è funzionale ai principi della democrazia e della sovranità popolare e alla garanzia dell'effettivo rispetto degli altri diritti umani, incluso il diritto all'ambiente e a condizioni di vita conformi alla dignità umana degli individui e delle comunità locali coinvolti dalle opere. Un punto fondamentale della democrazia moderna è la partecipazione effettiva alle decisioni sulle grandi opere. A me pare che questo punto sia un punto che trascende di molto le vicende della Val di Susa, a cui io sono affezionato, a cui ho potuto partecipare di persona molte volte, vedendo con i miei occhi ciò che si è fatto, per esempio, sulla necropoli della Maddalena e sul, ancor più profondamente, sul tessuto civile e democratico della valle. È per questo, dopo aver detto questo, che il Tribunale raccomanda al governo italiano di rivedere la legge obiettivo del dicembre 2001, che esclude totalmente le amministrazioni locali dai processi decisionali relativi al progetto, così come il decreto Sblocca Italia del settembre 2014, che formalizza il principio secondo il quale non è necessario consultare le popolazioni interessate in caso di opere che trasformano il territorio. Come tutti voi sapete, se abbiamo votato, seppur non abbiamo raggiunto il quorum al referendum sulle trivelle, è stato perché la Corte Costituzionale era d'accordo col Tribunale nel dire che lo Sblocca Italia calpestava alcune prerogative costituzionali delle regioni in questo caso. Ebbene, è impossibile, parlando di ciò in questi giorni, non notare che nella revisione costituzionale del titolo V, cosa di cui si parla assai poco, l'articolo 117 riserva senza equivoci alla legislazione esclusiva dello Stato, estromettendo le regioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, le infrastrutture strategiche, grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale. Materie queste che l'articolo 116 esclude esplicitamente da quelle su cui le regioni potrebbero in futuro godere di particolare autonomia con una procedura aggravata di approvazione. Allora, mi pare piuttosto impressionante che la ratio dello sblocca Italia, quella ratio che la Corte Costituzionale aveva censurato portandoci al voto, venga con la riforma costituzionale superata in radice. Le regioni vengono escluse totalmente dalla decisione in fatto di opere strategiche. Si potrà discutere sul fatto che se sono strategiche per l'interesse nazionale può essere giusto. Io ricordo la casistica recente delle avocazioni della Presidenza del Consiglio che ha definito opere di interesse strategico nazionale financo il porto turistico di Otranto, che è stato fatto, viene costruito in questo momento contro tutti i pareri della sovrintendenza, in barba al codice dei beni culturali, perché la Presidenza del Consiglio passa come un carro armato in base all'interesse strategico nazionale. Ora, tutto questo viene messo in Costituzione con una sorta di centralismo autoritario in cui, diciamo, sarebbe poi vano invocare il contrappeso del Senato delle Regioni, perché come ben sappiamo il Senato in realtà non è affatto delle Regioni, non si voterà per Regione come succede per i Länder tedeschi, ma ogni Regione si rispaccherà nelle componenti politiche. Dunque io credo che forse questa discussione dovrebbe avere la funzione di aprire un capitolo nella discussione fra sì e no che coinvolga anche l'ambiente e il territorio. Se ne parla pochissimo. Io credo che anche, come dire, leggendo e discutendo alcuni degli argomenti dei grandi sostenitori di questa riforma costituzionale, penso ai mercati internazionali, alla grande finanza, sia evidente che ciò che ci si aspetta dall'Italia in un contesto internazionale sia il poco che può ancora portare in dote, cioè territorio, paesaggio, ambiente. Direi che la centralizzazione, la nuova centralizzazione delle decisioni, che va in direzione diametralmente opposta a quella auspicata dal Tribunale, appare ancora più evidente laddove si sottolinei che l'articolo 117, così come è stato novellato dal riformatore, prevede invece che che per l'altra metà del secondo comma dell'articolo 9, cioè per il patrimonio culturale, questa competenza regionale invece rifaccia capolino. Perché è vero che valorizzazione e tutela, che il titolo quinto del 2001 scindeva mettendo regioni contro Stato e provocando un contenzioso alla Corte Costituzionale che si sta esaurendo giusto ora, le ricompatta, ma introduce in Costituzione la nozione di promozione del patrimonio culturale che viene data alla legislazione delle regioni. Nessuno è in grado di dire dove finisca la valorizzazione e dove inizi la promozione, anche perché entrambe vengono intese in senso puramente mercantilistico e commerciale in questo momento. Per cui, diciamo, ho sentito il Presidente del Consiglio dire in televisione durante il confronto con Zagrebeschi che finalmente le chiuderanno le rappresentanze delle regioni italiane all'estero. Succederà esattamente il contrario nel momento in cui si dà per Costituzione la potestà di legislazione in fatto di promozione del patrimonio culturale. Allora, diciamo, se si tratta di decidere come consumare il suolo con opere che avranno ricadute sulla vita, sulla carne, sulla pelle dei cittadini, le regioni vengono escluse, vengono però riammesse al banchetto della mercificazione del patrimonio culturale. C'è un metodo, diciamo, ma mi pare che sia un metodo che va in direzione diametralmente contraria a quella che auspica questa sentenza del Tribunale. Noto che questa che a me pare un'involuzione grave che la riforma prospetta si lega direttamente a ciò che censura la sentenza, cioè lo spirito dello sblocca Italia. Ricorderete che uno dei claim dello sblocca Italia, degli slogan con cui è stato presentato, che c'era scritto su tutte le slide dello sblocca Italia, era padroni in casa propria. Non è la sede per fare una storia di questo motto, che ha origini fasciste, che ha avuto grande fortuna nei paesi xenofobi dell'est europeo. È in Italia interessante perché invece la tradizione di questo motto non è legata alla xenofobia, non principalmente, ma è legata alla legge obiettivo, cioè era lo slogan che Berlusconi usò per la legge obiettivo. L'idea della proprietà del territorio, diciamo, con l'insofferenza a ogni forma di regola che temperi questa proprietà, intesa sia per la proprietà privata del singolo, sia per il legame che congiunge la comunità al territorio, è piuttosto impressionante. Piuttosto impressionante, soprattutto se si mette a confronto con ciò che contemporaneamente Papa Francesco, per citare, diciamo così, un altro attore del discorso pubblico italiano, di fatto, scrive e dice, invitando i cristiani, non i cittadini italiani, soltanto ad essere, a sentirsi non padroni, dice, ma custodi del creato. E l'idea del contrapporre padroni in casa propria alla custodia del creato è di una qualche impressione. È per questo che vorrei leggere brevemente un passo dell'enciclica Laudato Si che io ho sentito leggere in Val di Susa per la strada di fronte alla forza dell'ordine italiane, e non avrei pensato di vedere i manifestanti no TAV leggere un passo di un'enciclica papale. Lo leggo brevemente perché mi pare che sia esattamente nello spirito della sentenza. Uno studio di impatto ambientale, dice il Papa, non dovrebbe essere successivo all'elaborazione di un progetto produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall'inizio e deve essere elaborato in modo interdisciplinare, trasparente, indipendente da ogni pressione economica o politica. Deve essere connesso con l'analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale delle persone, sull'economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così prevedere in modo più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la necessità di un investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. È sempre necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali che possono apportare diverse prospettive e soluzioni alternative, ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l'interesse economico immediato. Bisogna abbandonare l'idea di interventi sull'ambiente per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce la decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante, come il controsservatorio, mi viene da dire. C'è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione. Direi che mettere a contrasto questo passo di un'enciclica del Papa con la proposta di riforma costituzionale del governo italiano è piuttosto illuminante per capire in che direzione si va e chi ha a cuore, diciamo, con uno effetto piuttosto spiazzante rispetto alle aspettative astratte di un marziano che giungesse o di un persiano che giungesse in Italia, quali siano, diciamo, le posizioni rispettive del Papa e di un governo di centro-sinistra in Italia in questo momento. Concludo questo breve intervento sottolineando anch'io come una parte commovente e, diciamo, politicamente forte della sentenza sia quella che riguarda le persone che si mobilitano contro il TAV, come contro altri progetti, l'aeroporto di Notre Dame des Landes e altri progetti. Queste persone devono essere considerate come sentinelle che lanciano l'allarme. Questa idea di una partecipazione di controllo e di una partecipazione, come dire, vorrei dire foucaultianamente, di parresia, cioè di persone che si alzano nella comunità e dicono la verità assumendosi le conseguenze di ciò che dicono, mi pare particolarmente importante e mi pare che, come dire, sia possibile desiderarlo, pensarlo, attuarlo, ovviamente a valle di una azione di educazione, di formazione, è un problema culturale soprattutto. Mi piace dirlo alla Fondazione Basso, il paesaggio e il patrimonio che vengono messi in Costituzione dei principi fondamentali al 9, collegati strettamente allo sviluppo della cultura e alla ricerca, primo comma dell'articolo 9, non hanno senso se non in connessione stretta con l'articolo 3 di Lelio Basso e di molti altri, e cioè il fatto che tutto questo, che tutto questo serva alla partecipazione. Quindi non soltanto il patrimonio si difende attraverso la partecipazione, il territorio si difende attraverso la partecipazione, ma hanno senso finché sono luoghi di formazione alla partecipazione. Questo mi pare il punto fondamentale. E devo dire che da questo punto di vista, da fiorentino, registro che domani al Teatro dell'Opera, Teatro dell'Opera di Firenze, il Ministro per i Beni Culturali e il Presidente del Consiglio parteciperanno alla prima mondiale del film Inferno, scritto da Dan Brown, l'autore del Codice da Vinci. Mi fa molta impressione che mentre le biblioteche e gli archivi storici pubblici vengono a morire per Minedia, mentre la buona scuola espelle la dimensione storica, diciamo, dalle scuole, il Presidente del Consiglio in un suo libro che vi raccomando, che si chiama Da Dante a Twitter, La rivoluzione della bellezza, ha scritto che quando la bellezza diventa storia dell'arte è inutile perché non trasmette emozioni, questa inimicizia per la storia, diciamo, e per la dimensione della consapevolezza storica si accompagna invece all'idea che la pubblica autorità, quelle anche preposte alla cultura, debbano partecipare, diciamo così, al lancio di Inferno. Il sindaco della città di Firenze si è dichiarato felice che la sua città, uso le sue parole, sia diventata la location del film e lui stesso una comparsa. Allora mi chiedo, fra l'essere comparse all'inferno, il titolo è molto evocativo, e sentinelle della partecipazione, c'è una differenza? E direi che in questo momento, nella distanza fra queste due possibilità, si gioca il futuro della democrazia italiana. Grazie. Bene, allora, dall'inferno di Dan Brown, in cui Matteo Renzi è comparsa, al... No, il sindaco. Il sindaco, era Nardella, scusate, ho capito male. Ok, ho capito male, esatto. In cui il sindaco Nardella è comparsa. Vorrei invece a questo punto dare la parola a Livio Pepino perché ci racconti anche l'inferno, quello vero della tensione, della lotta, del tentativo di conquista degli spazi di partecipazione, di cui i cittadini e le cittadine della Valsusa sono invece protagonisti, attori principali, eh? E quindi dalle comparse così un po' raggelanti che ci ha raccontato Tommaso passiamo invece a una realtà dura di resistenza che credo dovrebbe far scuola e che credo sia anche oggetto di molto studio anche da parte di accademici internazionali. Prego. Grazie. Ma io accolgo l'invito e provo a raccontarvi un pezzetto di storia, che è il pezzetto di storia che ha portato il movimento NoTav a chiedere l'intervento del Tribunale Permanente dei Popoli, cosa apparentemente strana. Quando abbiamo fatto questo ricorso alcuni ci hanno detto che eravamo matti. Come nasce? Io non voglio raccontarvi la storia del TAV, mi limito a due o tre flash iniziali per poi arrivare a questo passaggio, come si arriva all'intervento del Tribunale Permanente dei Popoli e cosa viene richiesto. Il punto di partenza è evidentemente la situazione del TAV, di questa linea ferroviaria che dovrebbe unire Kiev a Lisbona, era all'inizio, adesso ormai Lisbona è scomparsa, ma per la parte che ci riguarda, Torino a Lione, che prevede tra l'altro un tunnel di 57 chilometri in una montagna piena di amianto e di uranio, ovviamente di falde acquifere, e con una spesa complessiva prevista, stimata dalla Corte dei Conti francese in 26 miliardi tra Italia, Francia e Unione Europea, e con la presenza già di una linea storica che è attualmente utilizzata sotto il 30% delle sue potenzialità, in una situazione complessiva in cui il traffico ferroviario è come quello stradale, c'è un problema di crisi complessiva dei traffici, non voglio entrare su questo, ma è un dato ormai ampiamente dimostrato. Questa è la situazione su cui ci si muove, e su cui si muove, questo è l'aspetto originale, perché le grandi opere sono molto simili, che siano le miniere d'oro a cielo aperto in Romania o che sia il grande ponte terzo sul Bosforo appena concluso in Turchia, non sono poi così diverse al di là di alcuni aspetti. Ma qual è stata l'originalità della situazione della Valsusa? È stata che c'è una popolazione, una comunità locale, che dal 1990, anno dopo quello del primo progetto dell'opera, con un primo comitato che si chiamava Habitat, inizia una opposizione crescente alla grande opera. Una comunità interessata all'opera che raccoglie più o meno 80.000 persone e che è riuscita a produrre delle manifestazioni con la partecipazione di 70.000 persone, evidentemente non solo della valle, anche venute di fuori, e questo è un altro degli aspetti caratteristici, oltre a quello di essere un movimento strano, un movimento molto eterogeneo. È uno dei pochi movimenti che io ho conosciuto in cui ci siano i ragazzi che organizzano i concerti e i pensionati che presidiano per tutti i giorni dell'anno le località dove si pensa che stiano per avvenire degli interventi, delle trivellazioni, e per essere in grado di fare tam tam e di far arrivare la notizia di quello che sta succedendo, in cui uno dei movimenti più forti da un lato è quello dei cattolici per la valle, che si raccolgono ogni sera a pregare vicino al cantiere, fino ai centri sociali e ai gruppi degli anarchici, e quindi una realtà composita come poche altre se ne sono trovate nel nostro paese, che è diventata anche un punto di aggregazione a livello nazionale e a livello internazionale, perché a questo tipo di manifestazioni arrivano un po' tutti. Come nasce? E qui ci avviciniamo man mano al ricorso poi al Tribunale Permanente di Popolo. E come nasce questo movimento? Questa è una cosa interessante, perché nasce su richiesta di alcuni di questo comitato Habitat, che era un comitato fatto da alcuni ecologisti e da alcuni ex ferrovieri. Nasce con un tentativo di conoscenza. Uno dei primi atti che succede è quello di alcuni professori del Politecnico, chiamati da Habitat, che vanno in giro con il registratore a registrare i rumori del treno ad alta velocità in Germania e in Francia, e poi girano per i paesini della valle a far sentire agli abitanti quello che sarà il rumore del treno ad alta velocità. E questo innesca un processo interessantissimo di acculturamento diffuso. La cosa che impressiona di più andando in Valsusa, è una manifestazione in valle, è quella di trovare una competenza diffusa che è impensabile, di gente che non ha mai fatto studi particolari, ma che è in grado di rispondere e di replicare ai tecnici delle ferrovie, smontando i ragionamenti che vengono fatti dai tecnici delle ferrovie. Marco Revelli scrive che lui è diventato notav in una serata in cui era stato invitato da Beppe Sergi, professore di storia medievale, che faceva una lezione sulla storia della valle insieme ad altri. E questo succedeva a dicembre in un paese di 700-800 abitanti che si chiama Venaus, che in realtà non è in Valsusa ma in Valcenischi, alla valle a fianco della Valsusa, ma anch'esso interessata all'opera. E in quella sera d'inverno sono andati avanti per 4 ore con una nevicata terribile fuori, e non solo la sala piena, ma la gente fuori, che in mezzo alla nevicata stava a sentire le lezioni di storia medievale o di tecniche di trasporti, perché cresceva una cultura. Uscirà a giorni un libro di Marco Aime, un antropologo genovese, che è un libro che ho avuto la fortuna di leggere in anteprima, che è un libro sulle modificazioni antropologiche che il movimento Notav ha determinato nella valle, a livello di comportamenti, a livello di rapporti. Allora, è una comunità che intorno a questo problema, che interessava tutti, è cresciuta profondamente. E a un certo punto si è accorta o si è convinta di una cosa molto sgradevole per la valle, e cioè che lo Stato fosse in guerra con la Valsusa. E si è convinta che in Valsusa lo Stato utilizzasse una logica coloniale. Una logica coloniale nel senso che, come un tempo tra gli stati del cosiddetto terzo mondo si disegnavano i confini con una linea sulla carta geografica, così si disegnasse una grande opera sulla cartina geografica del Piemonte e della Maurienne, indipendentemente dalla conoscenza dei problemi reali e dalla richiesta di partecipazione, dal confronto con le popolazioni interessate. Allora, di qui, da questa convinzione, ripeto, maturata nei decenni, non insorta improvvisamente, di una logica coloniale che dal terzo mondo si sta trasferendo in Europa, è nata l'idea di rivolgersi al Tribunale Permanente dei Popoli, che è un organismo che è nato per questo, è nato per esaminare i processi del colonialismo e per vedere che cosa avevano significato e quali erano, cosa significavano i movimenti di liberazione e i diritti fondamentali delle popolazioni. Ecco, questo è stato il ragionamento, evidentemente ben sapendo che in termini anche qualitativi, in termini di entità di violazione dei diritti, in termini di aggressione delle persone, ci sono fenomeni incomparabili tra fenomeni del colonialismo e la logica che guida le grandi opere, ma la filosofia sottostante, l'idea sottostante, il fatto delle decisioni prese scavalcando le popolazioni erano in qualche misura le stesse, e quelle tecniche sperimentate e attuate per un secolo fuori d'Europa in realtà man mano stavano rifluendo in Europa come metodi di governo del territorio, governo della società, rapporto dello Stato centrale con le popolazioni. Ecco, questa è stata una convinzione che è cresciuta nel tempo e che a un certo punto ci ha portati, come contro Osservatorio Valsusa, ma prima ancora, tra l'altro l'idea è stata proprio di uno di quei professori del Politecnico che 26 anni fa aveva cominciato ad andare a registrare i rumori del treno in giro, a dire: ma ci sarà pure un giudice a cui ci si può rivolgere. E a quel punto, ragionando, abbiamo pensato che proprio l'organismo a cui ci si poteva rivolgere era il Tribunale Permanente dei Popoli, proprio per cercare di evidenziare quella logica che vi dicevo prima. E infatti noi abbiamo proposto al Tribunale Permanente dei Popoli, e ancor più la presidenza del Tribunale, nel dichiarare ammissibile il ricorso, ha posto dei confini chiari. Allora, il Tribunale Permanente dei Popoli non si è occupato, non poteva occuparsi, non doveva occuparsi dei problemi trasportistici, dei problemi di costi, se volete anche dei problemi di carattere ambientale. Si è occupato del problema del se e come le popolazioni interessate fossero state coinvolte nella decisione di arrivare a quest'opera. E noi abbiamo sottoposto tre questioni fondamentali su cui il Tribunale ci ha dato ragione, cioè ha sostenuto che effettivamente questo era avvenuto. Allora, le tre questioni, e ve le illustro brevemente, sono queste. La prima: c'è stata o non c'è stata, come noi riteniamo e come il Tribunale ha poi accertato, una sistematica estromissione delle popolazioni interessate dalle decisioni e dal controllo sull'opera? Seconda questione: c'è stato un condizionamento e uno sviamento delle valutazioni anche dei decisori politici attraverso la manipolazione dei dati relativi all'utilità dell'opera? Terza questione: c'è stata una disponibilità a discutere a fronte di richieste, appelli, sollecitazioni, esposti fatte dalla popolazione, da intellettuali, da tecnici, da uomini di cultura o di diversa estrazione. Allora, il fatto che questo non sia avvenuto, e in breve vi dirò come e perché non è avvenuto, è proprio la indicazione, almeno nell'impostazione nostra, di quella logica coloniale di cui parlavo prima. Perché la logica coloniale che cos'è? La logica coloniale è quello di prendere delle decisioni per interessi diversi, di carattere economico, politico, strategico, quello che volete, scavalcando totalmente le popolazioni interessate, che poi possono essere degli interi stati o possono essere anche delle piccole comunità. Ma la logica è questa. E allora noi abbiamo segnalato, e questo è stato accertato poi come veritiero dal Tribunale, primo, che quella sistematica estromissione di cui abbiamo parlato è un'estromissione che c'è stata in maniera evidente. Nei primi 10 anni, dal 1990 al 2001, c'è stata una totale estromissione di fatto delle popolazioni, cioè non c'è stata nemmeno quella attività di carattere informativo che è l'ABC della democrazia e che sia pure anni dopo la convenzione di Aarhus del 1998 ha espressamente previsto, firmata da tutti gli stati del mondo, Italia compresa, quando dice: quando viene avviato un processo decisionale che interessi l'ambiente, e virgolettata la citazione, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito fin dall'inizio, in modo che si prepari e partecipi effettivamente ai lavori durante tutto il processo decisionale. Allora, questo non è avvenuto, non solo, ma nel 2001 è intervenuta quella legge obiettivo di cui parlava prima Tommaso Montanari, che ha trasformato in situazione di diritto quella che era una situazione di fatto. Cioè, con la legge obiettivo si è detto espressamente, cioè non solo si è evitato di consultare le popolazioni, ma si è detto espressamente che le popolazioni e gli enti locali non dovevano essere consultati. Nel 2006 c'è stato poi un apparente cambiamento con la costituzione del cosiddetto osservatorio, di cui spesso si sente parlare, che doveva mediare o cercare di interrogare, cioè di interpretare quello che il pensiero delle popolazioni locali, della comunità locale, ma è stato in realtà un osservatorio che presto, all'inizio, ha raccolto dei materiali interessanti, tant'è che la gran parte delle elaborazioni del movimento NoTav sono sulla documentazione raccolta nei primi anni, nei primi 2 anni dall'osservatorio, ma poi a un certo punto è venuta fuori l'affermazione: adesso abbiamo smesso di scherzare, parliamo dell'opera. Tant'è che c'è stato addirittura un provvedimento del governo che ha escluso dall'osservatorio i comuni contrari, per cui l'osservatorio è diventato l'osservatorio dei comuni favorevoli, e si è arrivati addirittura, questo ve lo leggo perché è un passaggio fondamentale, si è arrivati addirittura a quello che viene contrabbandato a livello italiano e a livello europeo come un accordo dei comuni in una certa riunione a Prakatinat. Allora, io vi leggo un pezzo di quella che era l'allora sindaca di Condove, Barbara De Bernardi, la quale dice: si arriva così al 28 giugno 2008, quando il presidente dell'osservatorio convoca una riunione conclusiva a Prakatinat. Quel pomeriggio ricevo una telefonata da parte di un giornalista di una testata nazionale, era poi il Corriere della Sera, che mi chiede una dichiarazione sulla mia firma all'accordo di Prakatinat. Cado dalle nuvole, anche perché mi trovo a 1000 chilometri di distanza in Puglia. Ovviamente non ho firmato nulla, né ho delegato qualcuno a farlo al mio posto. Telefono ad alcuni colleghi, anche loro non sono andati a Prakatinat e anche loro non hanno firmato alcun accordo. Eppure il tenore dei titoli dei giornali del 29 giugno è: raggiunto l'accordo, siglata l'intesa sindaci-governo sul tracciato della linea. Chiudo quindi con una domanda, alla quale purtroppo ho già dato risposta. Cosa c'è di peggio di uno Stato che non ascolta i cittadini e i loro rappresentanti liberamente e democraticamente eletti. Di peggio, c'è uno Stato che mente. Questa è la prima fase, con una reazione che non è di qualche estremista del movimento, ma del sindaco, della sindaca di un paese del centro della Valsusa. Il secondo punto, e ho ancora 3 minuti e quindi dedico 1 minuto e mezzo a ciascun punto, è il condizionamento delle decisioni attraverso i dati in veritieri. Guardate, questo è un dato importantissimo, perché la legge con cui l'accordo, poi ratificato con legge sia approvata dal Parlamento francese che dal Parlamento italiano, l'accordo Italia-Francia del 29 gennaio 2001, prevede che la nuova linea deve essere attuata quando ci sarà, o comunque in previsione, della saturazione della linea esistente. Il Parlamento francese lo ratifica dicendo: la saturazione della linea esistente è precondizione indispensabile. Allora, sono 20 anni che vengono diffusi dei dati che dicono che la saturazione è prossima. E sono, non è casuale, perché evidentemente riguarda quello che è il contenuto. Ora, questi dati sono dei dati totalmente in veritieri. C'è stato il professor Cancelli, del Politecnico, che lo ha dimostrato con i grafici, e dice che a un certo punto i suoi studenti l'hanno diffuso sui social con i grafici del cappellaio matto, perché sono dei grafici assolutamente incredibili, che poi vengono modificati dal 1989, quando hanno cominciato a fare le prime proiezioni, sono passati degli anni. Per cui, quando si è detto fra 10 anni il traffico sarà triplicato e invece il traffico era diminuito, si sono modificati i grafici. Si è previsto che sarebbero aumentati dopo. Questo è tutto documentato, non è una... Allora, tutto questo è una espropriazione, evidentemente, delle possibilità di controllo e di partecipazione. E l'ultima, e su questa chiudo, è la totale mancanza di risposta a una serie di esposti, di richieste, di quant'altro, che poi ha portato all'irrigidimento e a quelle che sono state delle situazioni anche deplorevoli, di scontri, che è ormai diventata una situazione di guerra, tra virgolette, di conflitto aspro, di cui, e questa è una delle cose più preoccupanti, non si vede la via d'uscita. Questa è la situazione per me più preoccupante. In una situazione in cui, cito, visto che Tommaso l'ha ricordata, io vi ricordo un altro pezzo dell'enciclica papale, che dopo aver detto che l'ambiente è un bene collettivo, dice: per questo i vescovi della Nuova Zelanda, guardate un passaggio, si sono chiesti che cosa significa il comandamento non uccidere. Quando un 20% della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Allora, siccome le parole non sono usate a caso, qui il riferimento è a non uccidere e non rubare. Questi sono i due termini che sono utilizzati. Allora, in una situazione in cui i problemi evocati, io non dico che sia così, dico, i problemi evocati sono questi, evitare il confronto è quanto di più drammatico e di più incredibile ci possa essere. Ecco, noi abbiamo sottoposto questo tipo di problemi. Il Tribunale, lo ricordava già il professor Allegretti, ha risposto che effettivamente questo tipo di violazione dei diritti fondamentali ci sono stati, tanto che la sentenza conclude invitando il governo italiano a una apertura, a una riapertura del dialogo, esteso, questo è l'aspetto importante, esteso alla opzione zero, cioè non il dialogo su come si fa l'opera, ma il dialogo se si deve fare oppure no, e qualora si debba fare, come la si deve fare. Ma il dialogo solo sul come si deve fare l'opera con chi non la vuole non è un dialogo, ma è una cosa diversa, secondo come chiamano dialogo i dizionari della lingua italiana. E invitando, questa è la conclusione del Tribunale, a sospendere i lavori mentre questo avviene. Sappiamo che le decisioni del Tribunale Permanente dei Popoli non sono delle decisioni esecutive, ma non per questo sono delle decisioni che non hanno un senso anche giuridico, perché io credo che queste sono delle cose che si sedimentano e che costituiscono in qualche modo una risposta per cercare di bloccare quella logica di carattere coloniale che è la caratteristica, non solo, sarebbe già grave, ma sarebbe una cosa sola, di quanto sta avvenendo in Valsusa, ma della logica delle grandi opere nell'intera Europa. Grazie mille. Allora, sì. Grazie. Ciao Tommaso. Ciao, grazie. Ecco, sì, la valigia tua è lì, perfetto. Bene, allora il Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli suggerisce, se ci sono domande, di attivare adesso delle domande, degli interventi, e poi lui chiuderà con alcune considerazioni. Chi vuole fare domande è pregato di venire qua, perché così registriamo. Dobbiamo registrare, mi dispiace, ma Massimo, ma così abbiamo tutto quanto l'intervento. Ecco, ok. Ok, grazie. Io volevo fare addirittura seduto. Volevo fare una domanda. Sì, io sono Massimo Marnetto, Libertà e Giustizia di Roma. E, tra parentesi, mi è dispiaciuto non stringere la mano a Tommaso Montanari, perché è vicepresidente da poco di Libertà e Giustizia, quindi ancora non ci siamo conosciuti. No, la mia domanda è questa al nostro amico che ha appena parlato: ma è vero che in Francia si sono comportati esattamente nel modo che abbiamo detto noi adesso, cioè consultando tutte le popolazioni, e sono arrivati ad un accordo, quindi si è evitato il caos e la contrapposizione frontale proprio perché c'è stata questa accortezza nel tempo? Grazie. Sì, prego, venga. Sì. Record mondiale di durata della domanda. Stato bravissimo. Straordinario. Io volevo dire che io sono Rosalba Capomacchio, una persona, sì, però, frequento la fondazione, vari tipi di impegni, cioè. E dunque io volevo dire che mi riconosco pienamente nel discorso delle opere, della, cominciare dal territorio, l'ambiente, la cultura, l'arte, e mi sembra un grandissimo patrimonio che può essere messo a disposizione, diciamo, a livello universale, quindi ha questo grande valore. E poi anche come discorso di sviluppo, di costruzione, io ho letto, mi è capitato di leggere sui giornali, la costruzione di grandi infrastrutture che permettano lo sviluppo dei paesi più svantaggiati, e quindi queste grandi opportunità. Ma certo, tutto questo, queste grandi possibilità economiche anche che si offrono, e secondo me va inserito come sempre in un contesto politico di modelli, di finalità che sono a mio avviso quelle di un grande patto costituente sui grandi valori, sui diritti universali, di valori democratici, di patto sociale, di consapevolezza, ecco. E in questo senso, come si diceva già prima, di risoluzione del rapporto fra istituzioni e società, in modo che non ci sia nessun gap, questo, ma che la società sia, abbia una forma di partecipazione a livello progettuale. Grazie. Altre domande, questioni? Altrimenti do la parola. Prego, se anche Sì, comincio a dire una cosa io e poi... Ma la situazione francese è parzialmente diversa da quella italiana. C'è una procedura del cosiddetto débat public che prevede una maggiore partecipazione, anche se secondo una parte notevole di movimenti francesi insufficiente, ma comunque prevede un confronto come precondizione necessaria per arrivare, per addivenire una grande opera. Questo è stata una, l'attuazione di questo sia pur parziale momento di confronto, è stata una delle ragioni per cui il movimento di opposizione in Francia è stato un movimento di opposizione minore. Dico minore perché soprattutto adesso sta diventando un movimento molto significativo. Per esempio, da ultimo, la città di Grenoble ha dichiarato la propria opposizione e la propria non partecipazione a quelle che dovrebbero essere le spese per e così altri comuni minori. In una situazione peraltro in cui è sentito molto meno in Francia che in Italia, al di là delle questioni ambientali che sono sostanzialmente le stesse, per due ragioni fondamentali. Primo, perché in Francia è pacifico, perché l'ha detto recentemente ancora la Corte dei Conti, se i lavori cominceranno fra 20 anni. I francesi l'hanno detto espressamente, di soldi non ce ne sono, quindi i lavori non si fanno per il versante francese. E invece per la parte che si dovrebbe fare, cioè la tratta internazionale, il tunnel, e la Francia lo sente molto meno sotto il versante economico, perché con un accordo del tutto incredibile, questo è la cosa che bisognerebbe anche dire, l'Italia pagherà i due, a parte il contributo dell'Unione Europea, ma sulle spese dei due stati l'Italia pagherà i due terzi, in una situazione in cui il territorio italiano è un terzo, mentre due terzi sono in territorio francese, che è un accordo dettato dal fatto che, siccome la Francia non aveva particolare interesse a fare il tunnel, i governi che si sono succedute per indurre i francesi all'accordo hanno detto va bene, lo paghiamo quasi tutto noi. Allora è chiaro che per quanto riguarda l'aspetto economico, poi l'aspetto ambientale evidentemente è diverso e prescinde da questo, tutto sommato ci può pure essere un interesse della Francia diverso da quello italiano, cosa che ormai è stata riconosciuta. E ancora in una trasmissione televisiva di due giorni fa lo diceva il ministro delle Infrastrutture Delrio, e dicendo peraltro una cosa che smentisce l'utilità dell'opera, rivendicando resipiscenza del governo il fatto di avere rinunciato a gran parte delle opere sulla linea storica a valle del tunnel. I famosi 54 chilometri in cui non si faranno delle altre gallerie e si usa la linea storica. Che in realtà, per fortuna che questo è accaduto, ma in realtà è una follia, perché voi pensate che si fa un tunnel, cioè si scavano 57 chilometri dicendo perché la linea storica non è sufficientemente moderna, non è adatta. E poi però si fa solo il tunnel e non si fanno i collegamenti. Sarebbe come in un'opera idraulica fare al centro un tubo con un diametro di 3 metri e avere degli adduttori di 30 centimetri di diametro. Cioè avere... Allora, o l'opera era indispensabile, o era indispensabile e allora bisognava farla tutta. O la linea storica, come sostiene il movimento Notav, poteva essere ammodernata e in questo modo rispondere alle esigenze, allora lo era tutta, perché il problema delle caratteristiche dei binari, dei passaggi dei treni è analoga. Però questa cosa dimostra come a un certo punto la percezione che i francesi hanno scritto espressamente in una serie di documenti ufficiali in Italia è stata affermata in questo modo surrettizio della insostenibilità quantomeno economica al nostro modo di vedere non è solo un'insostenibilità economica, anche se questo evidentemente nella situazione di crisi che viviamo è un aspetto fondamentale, sia una percezione in qualche modo diffusa che in Francia, per rispondere alla domanda e concludere su questo punto, è stata un po' assorbita e resa meno evidente da questa emissione insieme alla questione del débat public, in cui indubbiamente c'è stato un confronto, ripeto, secondo i movimenti francesi insufficiente, ma un confronto c'è stato, mentre in Italia non c'è stato, e quindi questo ha disinnescato una serie di fenomeni di conflittualità a dimostrazione che il confronto è poi comunque sempre l'unica strada per arrivare ad evitare un conflitto frontale. Professore Allegretti, vuole aggiungere? No, io aggiungerei questo, nella linea che dicevo prima, che dobbiamo sforzarci di trovare anche le vie d'uscita positive, vorrei ricordare che l'articolo 22 del recentissimo codice degli appalti, il nuovo codice degli appalti dell'aprile di quest'anno, prevede una delega al governo, o meglio in forma anomala, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe dare, cioè prevede l'obbligatorietà per certe opere del dibattito pubblico alla francese, si adopera però un po' dibattito, un po' consultazione, generando qualche incertezza ed equivoco, però la parola dibattito prevale e si delega, diciamo, il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto a fissare la regolamentazione di come possano avvenire i dibattiti pubblici, i termini e gli effetti che possono avere sulla decisione, che certamente non saranno maggiori di quelli che è in Francia, che non sono effetti decisori neanche in Francia, ma sono effetti che normalmente condizionano la decisione finale, come dimostrano molti dei casi certificati della CNDP francese. Allora, ecco, questa, siccome la delega dura un anno, salvo errore, è appena iniziato a insomma, è da poco iniziato a decorrere, non ricordo se un anno o 18 mesi, ma insomma una delega importante. Io stamattina ho cercato infatti con alcune telefonate che credevo strategiche di capire se è in elaborazione e quali contenuti avrebbe questo decreto. Però ecco, teniamolo presente come una possibilità che si potrebbe aprire, cioè che si è aperta in Toscana senz'altro con la legge apposita, c'è stato il dibattito, finalmente un dibattito pubblico con la seconda legge, perché prima non era stata mai attuata con dibattiti pubblici ma solo con contributi ai comuni per piccole opere, e c'è stato però per l'assetto del porto di Livorno, adesso non si è riusciti ad averlo ancora e forse non si riuscirà per Peretola, certamente non per il tunnel, però il tunnel per l'altra via si sta ridimensionando sotto Firenze, sembra, le ultime notizie sono per un certo ammorbidimento della situazione sia sul fronte direttore generale delle ferrovie che sul fronte sindaco Nardella, rimane Rossi che è su posizioni più dure eccetera, ma insomma ecco, mi domando, possiamo tentare di calcare anche questo tipo di stati, non lo so, è veramente una domanda, è solo una domanda, è una speranza, se volete un'illusione, un'utopia, però alcuni strumenti lentamente, almeno sul piano delle parole, sono stati messi, ecco, quindi teniamo presente e cerchiamo di capire come al Ministero delle Infrastrutture è in corso l'elaborazione di questi criteri previsti dall'articolo 22 del nuovo codice degli appalti. Approfitto di questa sua menzione della discussione sul nuovo codice degli appalti, perché ne abbiamo discusso con Gianni qualche giorno fa, mi vorrei impegnare qui a riportare il dibattito, non concludere questo dibattito stasera, perché appunto volevamo ritornarci sul discorso delle grandi opere come paradigma e di tutti questi spazi che magari potrebbero crearsi con altri diciamo ricercatori, con persone che ci stanno lavorando e che lavorano per esempio sul discorso dei ponti, le autostrade, no? Questa idea, quindi ci ritorneremo, perché secondo me quello che lei dice è molto giusto, è assolutamente da non lasciare intentato. A questo punto darei la parola a Franco Ippolito, il Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli, che appunto si è ritrovato, proprio perché, come ci diceva prima Livio Pepino, rifluiscono in Europa, no? Paradigmi, dinamiche coloniali, colonialistiche che si sono viste applicate nel terzo mondo, cose che peraltro vale tale e quale per le ricette della finanza internazionale, che applicate per decenni nel sud del mondo rifluiscono anch'esse nel nord. Questa esperienza del Tribunale Permanente dei Popoli, insomma, in contesti inusitati perlomeno, no? Rispetto alla storia del Tribunale stesso e a quello che possono essere anche, diciamo, gli utilizzi ulteriori e cosa possiamo fare come fondazione, come società civile italiana per dare un seguito ulteriore a queste raccomandazioni, al dispositivo di questa sentenza, alcuni concetti fondamentali che quella sentenza ha messo in evidenza alla luce del dibattito pubblico che invece c'è sulla stampa vivace sul paradigma delle grandi opere come soluzione per dare lavoro e risolvere la crisi economica. Grazie. Ecco, il filo di ragionamento che ha espresso questa sera Livio Pepino, che aveva alla fine determinato il movimento Notav a individuare nel Tribunale per Permanente dei Popoli quel giudice che pure da qualche parte doveva stare, a Berlino o a Roma o in Europa, in realtà era parallelo, è stato parallelo a una riflessione che del tutto autonomamente e completamente ignorando questa riflessione che andava facendo il Piemonte, qui in il tribunale si, come dire, interrogava alla luce di alcune esperienze, e le esperienze che avevamo alle spalle erano in particolare le esperienze che il tribunale ha fatto in America Latina, ma non solo in America Latina, ragionando, discutendo e accertando il ruolo delle multinazionali, delle transnazionali, in alcuni contesti, in particolare Colombia, Perù, diciamo tutta la fascia andina, l'impatto delle scelte economiche delle multinazionali sull'Amazzonia e così via. Allora noi ci siamo trovati in Colombia e in Perù ad fare sessioni del tribunale che vedevano protagonisti, attori, testimoni, popolazioni indigene e contadini delle Ande. Siamo arrivati ad alcune conclusioni, le sentenze si possono leggere, sono pubblicate tutte nel sito del Tribunale. Ecco, nel momento in cui andavamo facendo questi ragionamenti e c'è pervenuta la richiesta di una sessione del Tribunale sulla vicenda TAV, Torino-Lione, è scattato un interrogativo che aveva a che fare proprio con le origini del Tribunale e tutti i discorsi sul colonialismo di cui è espressione la Carta del Diritto dei Popoli di Algeria. Tenete conto che storicamente è accaduto che il Tribunale più volte ha affermato: noi diamo voce ai popoli nelle situazioni in cui l'istituzione nazionale non riesce a esprimere la forza del diritto e quindi a affermare i limiti che lo Stato di diritto mette contro i poteri e le prepotenze dei poteri. Ora, è ovvio che questo accade soprattutto dove lo Stato di diritto è debole, e poiché in Europa lo Stato di diritto è nato e si è consolidato, in Europa ci sono stati nella seconda metà del Novecento, dopo le tragedie naziste e fasciste, le più avanzate costituzioni democratiche, era inevitabile che apparisse strano che il Tribunale assumesse lo stesso ruolo che ha avuto in paesi dell'America Latina o dell'Africa o dell'Asia. Però quando abbiamo cominciato a ragionare sulle questioni che la denuncia e la richiesta che ci veniva posta, abbiamo individuato un oggetto proprio di nostro intervento, tant'è che nel provvedimento della Presidenza del Tribunale, che riteneva ammissibile la richiesta e diceva ce ne interesseremo, fu subito detto: non siamo noi che possiamo dire se l'opera è utile, quanto costa, i danni che fa o i benefici che apporta, perché questo è estraneo, diciamo, alla competenza e anche al tipo di cultura che il Tribunale esprime. E invece ci è sembrato che fosse l'occasione di approfondimento e di dibattito che ci veniva dalle nostre riflessioni in America Latina, quindi non per gli aspetti strettamente tecnici, dati economici, rischio salute, utilità e quant'altro, ma per ciò che riguarda le finalità e l'effettività delle procedure di consultazione delle popolazioni coinvolte e l'incidenza sul processo democratico, sia nei paesi di democrazia cosiddetta avanzata, sia nei paesi in via di sviluppo. E che qui ci fosse un problema di effettività della consultazione, prima che lo dicesse il Tribunale, avvalorando la denuncia del controosservatorio, lo abbiamo trovato scritto sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte Osservatorio Torino-Lione, di cui ha parlato poc'anzi Livio Pepino, in cui si dice: purtroppo spesso è stata sottovalutata la necessità della condivisione e delle informazioni ai cittadini, e la nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta un caso limite. Le carenze iniziali di dialogo fino al 2006, quindi il governo italiano ufficialmente scrive nel suo sito che fino al 2006 c'è stato carenze di dialogo che hanno generato una radicale contrapposizione. Ora, basta questo per dire questa confessione istituzionale è più che sufficiente ad attivare l'attenzione del Tribunale. Tanto più che il Tribunale Permanente dei Popoli, nella sua storia, ha sempre tentato di supplire a carenze e a mancanze istituzionali. E nel momento in cui constata, non solo perché i denuncianti se ne lamentano, ma perché anche quella che è diventata nei fatti la controparte lo ammette nel suo sito ufficiale, è da questo che nasce la nostra attenzione. Io personalmente non sono stato a Torino e per vicende personali non ho avuto alcun ruolo, salvo i momenti iniziali dell'ammissibilità, però non ho alcuna esitazione a dire che nella sentenza fatta a Torino mi riconosco, e io ringrazio Philippe Tessier che ha presieduto la giuria, Umberto Allegretti, la cui il cui rigore, la cui indipendenza di giurista è noto in tutte le accademie nazionali e internazionali, e via via parlo di Philippe Texier presidente, di Umberto Allegretti che è presente, ma lo stesso discorso vale per Perfetto Andrés e per tutti gli altri colleghi, Anton Pigrau, professore di diritto internazionale in Spagna, per cui sono rimasto letteralmente sconcertato nel leggere su un giornale torinese, dopo la sentenza, che un sedicente tribunale composto da chissà da chi avesse assunto quella posizione. Allora, questo sedicente tribunale ha una storia ormai ultradecennale e ha dei prodotti, cioè le sue elaborazioni che prendono il nome di sentenze in correlazione al nome che Lelio Basso ha dato all'epoca al tribunale, sulla scia dei noti tribunali Russell 1 e 2, che hanno costituito più volte oggetto di esame da parte di organismi internazionali, istituzionali, in varie agenzie delle Nazioni Unite, e anzi la creazione di alcuni organismi internazionali è stato anche il risultato del contributo che il Tribunale nei decenni e negli anni ha dato, a cominciare per esempio dalla più prestigiosa Corte internazionale, almeno teoricamente parlando, che è la Corte Penale Internazionale, la cui istituzione è stata per decenni più volte invocata anche in sentenze del Tribunale. Non do giudizi poi su come ha agito la Corte Penale Internazionale, perché quando si hanno grandi aspirazioni poi le delusioni sono cocenti, però intanto è importante che l'istituzione sia stata creata, e continueremo la battaglia culturale e giuridica perché la giurisdizione di questa Corte Penale Internazionale diventi effettiva, soprattutto quando ce n'è bisogno, e ce n'è bisogno non quando esistono chiaramente vincitori e vinti che sono stati già dalla storia condannati, ma sono importanti le risoluzioni, le decisioni, gli interventi imparziali nel cuore dello scontro, a cominciare per esempio dalla vicenda israeliano-palestinese. Chiusa questa parentesi, ritornando a noi, dov'è la parte che io ritengo davvero importante di questa sentenza? È il capitolo che riguarda l'effettività delle consultazioni, e quindi non solo, lo dice lo stesso governo, fino al 2006 non ce n'è stata. Vediamo, e la sentenza ha detto, se successivamente al 2006, cioè dopo l'osservatorio, la consultazione è stata effettiva o invece è stata apparente. Livio Pepino ha aggiunto qualcosa in più, è stata anche in parte manipolata. Perché quando alcuni sindaci che sono stati contattati dai giornalisti, io qui ho un giornale, La Repubblica, che in cronaca subito dopo Pracatinat titolava TAV, accordo sulla Torino-Lione, e arriva subito il sì dei sindaci. E poi invece apprendiamo che alcuni sindaci non c'erano, e soprattutto nella rapporto denuncia istanza sollecitazione che il controosservatorio, abbiamo una serie di soggetti, sappiamo che 23 comuni hanno continuato a dire sempre no, ma qui abbiamo la firma di, oltre al presidente del controosservatorio, Loredana Bellone, sindaco di San Didero, Emilio Chiaberto, sindaco di Villar Fottiardo, Elizio Croce, sindaco di Villardora, via via via, fino a al vicepresidente della comunità montana di Valle Susa e Val Sangone. Allora, siccome questo è un atto del 2015, probabilmente bisogna dire che quantomeno, ammesso che non si voglia dubitare delle intenzioni di chi ha fatto l'osservatorio e di chi l'osservatorio ha gestito, ma quantomeno deve essere stata malaccorta questa gestione se la maggioranza dei sindaci continua a dire no e addirittura ha chiesto l'intervento del Tribunale. L'altra parte importante di questa sentenza è il capitolo sull'interesse. Queste sono opere di interesse generale. Non aggiungo parola a ciò che ha detto Tommaso Montanari per quanto concerne la modifica costituzionale del 117 che accentra nuovamente solo a livello di governo la decisione di tutto ciò che attiene all'interesse nazionale. Ora, la sentenza prende in esame l'interesse e si fa alcune domande. E anche qui alle spalle abbiamo l'esperienza latinoamericana, che poi è l'esperienza delle Nazioni Unite. Latin America è stata conquistata, no? 500 anni fa dagli europei, la famosa conquista. Ma non è che lì era una terra disabitata, lì c'erano persone in carne e ossa. Certo, magari 400 anni fa ancora parte della Chiesa si andava interrogando se avessero o non avessero un'anima. Non solo, ormai non lo nega più nessuno, l'anima ce l'avevano, ma avevano anche forme di civiltà anche in parte avanzate. Bene, la conquista ha segnato anche il genocidio di molte di queste popolazioni. Finalmente, col nuovo diritto internazionale, dopo 500 anni, col paradigma diverso delle Nazioni Unite, si cominciano a tutelare anche queste popolazioni, non solo nella loro sussistenza ed esistenza, ma anche nel diritto alla identità culturale, che è tutt'uno con il diritto al proprio territorio che in quella cultura è qualcosa di diverso anche dal nostro, perché la terra è davvero la madre. E l'identificazione tra indigeni cosiddetti, popolazione indigene e territorio è un problema di proprio identità culturale e storica. Bene, risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma anche apposite convenzioni, hanno finalmente affermato che non si può continuare a violentare il territorio di queste popolazioni indigene senza coinvolgere direttamente, sentire e parlare e avere il consenso di queste popolazioni. Certo, lì la cosa è diversa, già lo diceva Pepino, è improponibile un confronto fra le sofferenze, le tragedie, i genocidi del colonialismo fatto in America Latina e i problemi nostri. E tuttavia, se finalmente siamo in parte fuori da quel colonialismo, oggi si ripropongono dinamiche, culture, egemonie, primati, personalizzazioni che ci fanno parlare di una ripresa sotto nuova forma di cultura e di dominio coloniale, non solo in America Latina, in Africa e in Asia, ma anche nei paesi cosiddetti di democrazia avanzata come l'Europa. Tanto più che gli stessi stati nazionali sono in crisi e non sono capaci, non hanno la forza, non hanno la potenza, non hanno le ricchezze, le risorse per contrastare decisioni che si prendono in tra pochi soggetti economicamente forti e che alla fine vengono imposti o comunque realizzate sotto l'influenza egemonica di queste potenze economiche anche da parte di istituzioni internazionali e di governi nazionali. Ancora una volta un esempio sudamericano. Siamo stati nelle sessioni fatte in Colombia, abbiamo avuto testimonianze di soggetti che ci dicevano: ma badate che il nuovo codice minerario per le miniere è stato realizzato con la consulenza di soggetti esperti in diritto minerario che erano consulenti e dirigenti delle agenzie minerarie e delle imprese minerarie. E se prima lo Stato colombiano aveva di royalty una certa percentuale che era ampiamente superiore al 15%, nella nuova legislazione siamo al livello del 5%. Quindi non solo le multinazionali sfruttano le miniere colombiane, ma addirittura sono riuscito con una legge autonoma colombiana, ma fatta con la consulenza di questi soggetti, ad abbassare anche, come dire, le provvigioni che lo Stato colombiano ricava da questo sfruttamento, che più che sfruttamento è una vera e propria svendita delle risorse naturali. E questo è contrario non solo alla Carta di Algeri, che è la carta ideata, promossa dall'Elio Basso, che ebbe un grande consenso 40 anni fa, ma è contraria anche ai patti internazionali, che sono vere e proprie convenzioni sancite prima dalle Nazioni Unite e poi sottoscritte dalla gran parte dei paesi, in cui si afferma il diritto del popolo alla utilizzazione delle proprie risorse. L'esempio colombiano mi serve per venire da noi. L'interesse generale colombiano e l'interesse delle popolazioni indigene appariva in contrasto. Poi scava e ti accorgi che l'interesse era in contrasto, perché il cosiddetto interesse generale era l'interesse delle multinazionali in alleanza con il governo del tempo della Colombia. Ma l'interesse delle popolazioni indigene, invece, cosiddetto interesse particolare, perché era particolare di quelle popolazioni, finiva con l'essere effettivamente l'interesse di tutta la comunità colombiana. Andiamo da noi. Qual è l'interesse e come individuare i soggetti portatori di questo interesse? È un interesse di minoranza? Ma minoranza rispetto a che cosa? Dice, è l'interesse minoranza della Val Susa, perché il raffronto lo facciamo rispetto alla provincia di Torino o rispetto alla regione Piemonte o rispetto, come ormai, visto che è interesse nazionale, rispetto a tutto il paese o rispetto all'Europa. E qui si corre il rischio davvero di una truffa delle etichette, perché è chiaro che se tu vuoi paragonare l'interesse di una popolazione di 120.000 persone all'interesse di tutta la popolazione piemontese e così via, tanto più quando hai le corazzate mediatiche che ti dicono che quello è un interesse localistico, che in realtà con la Torino-Lione andiamo verso il sol dell'avvenire, le magnifiche sorte progressive dell'Europa e della crescita europea. E qui la sentenza dedica, qui vi prego di leggerla perché è talmente bella, è talmente in un discorso concentrato e dettagliato che sarebbe un peccato qui sintetizzarla. ma si dice sostanzialmente questo. Si tratta di interessi che fanno riferimento a cose del tutto diverse, perché l'interesse particolare fa riferimento alla vita di persone in carne e ossa che vivono in Val di Susa, rispetto a valori che hanno il riconoscimento nella Carta Costituzionale, che sono la vita, la salute, il paesaggio, l'ambiente, che hanno riconoscimento di diritti umani a livello anche internazionale. Il cosiddetto interesse generale, che è rappresentato da chi volle e propose quest'opera, Fondazione Agnelli, di chi lavora per la realizzazione concreta di quest'opera, e cioè le grandi imprese consorziate che devono farla, non è che la fanno gratis, e il cosiddetto necessità della crescita del mercato internazionale, in un'epoca in cui il mercato internazionale è il mercato delle grandi multinazionali e delle grandi compagnie di finanza o dei soggetti forti di finanza. Allora, come vedete, la comparazione è veramente a livelli differenti. È una comparazione di valori. Da un lato, popolazione, diritti fondamentali di individui e di collettività, e dall'altro interesse economico di mercati che ormai riescono a sottrarre ogni potere, o tentano di sottrarre ogni potere, agli stati, alle loro costituzioni e all'affermazione di diritti fondamentali. Ora, il Tribunale Permanente dei Popoli è stato istituito per questo, per dire anche qual è il diritto nella contesa impari fra soggetti deboli e soggetti forti. Il primo tribunale, vi ricordate qual ebbe, che cosa ebbe per oggetto? Era la guerra del Vietnam, cioè da un lato gli Stati Uniti e dall'altro il popolo vietnamita. E un tribunale disse no, non avete il diritto agli Stati Uniti, cioè alla potenza egemone. Ora, noi non siamo il Tribunale Russell, siamo il Tribunale Permanente dei Popoli, ma siamo nati, grazie alla lungimiranza e alla capacità profetica di Elio Basso, da quell'esperienza. Per cui andiamo ad analizzare l'impari conflitto e confronto tra una piccola comunità e le multinazionali interessate a questa tratta, e diciamo molto modestamente, secondo noi è stato violato anche sistematicamente il diritto di queste popolazioni, e c'è un giudice da qualche parte che dice qual è il diritto e affida queste cose alla pubblica opinione. Non ha carabinieri, non ha polizia, non ha strumenti istituzionali. E badate, io che per tutta la vita ho fatto e faccio, e sono orgoglioso di farlo, il giudice della Repubblica Italiana, non ho alcuna esitazione a dire che non basta la giurisdizione formale dello Stato di diritto e della Repubblica Italiana o tedesco, francese o spagnola. Ci sono a volte dei conflitti che hanno bisogno che qualcuno, al di là delle procedure formali, dica qualcosa che inveri, almeno prospetticamente, la giustizia. E a volte i tribunali ordinari, con i loro codici e con le loro procedure, affermano la legalità, ma non riescono a, perché la legalità ha dei limiti intrinseci, non riescono a dare alla legalità quello anelito verso la giustizia. Una donna colombiana, quando abbiamo letto una sentenza dopo 2 anni di lavoro a Bogotà, ci ha poi fermato e ci ha detto, piangendo, grazie, ma sapete perché? Perché si era sentita, aveva sentito che la sua sofferenza, aveva perso la famiglia, i figli, era stata riconosciuta da una istanza internazionale. Lei sapeva benissimo che non avrebbe avuto nessun risarcimento, lo sapeva benissimo, ma il grazie era perché una affermazione di diritto che rimane sul piano etico si congiungeva con la sua aspirazione alla giustizia. Ecco, in piccolo, anche nella civile Europa, che si chiama Italia, Francia, Germania o quant'altro, il Tribunale ha continuato a dire queste cose e, per quanto ci riguarda, siccome siamo testardi, continueremo a dire e a fare queste cose. Grazie. Grazie Franco, a Franco Ippolito, ed è per questo che il Tribunale è permanente, appunto, è per questo che permane e permarrà anche il nostro impegno a dare ulteriori anche prosecuzione e ulteriori sedi a questa sentenza, che secondo me ancora in Italia non è stata sufficientemente sviscerata, dibattuta. Là dove succede poi invece suscita molte... Sì, sta sul sito e, sì, sta sul sito, cioè, lo troviamo della fondazione, ma anche su Google la trovi tranquillamente, e quindi permanentemente stiamo a portare avanti queste istanze. Fra l'altro, in un tempo della globalizzazione, lo abbiamo detto da subito, collegano i popoli, collegano le comunità, perché ormai le ricette sono ugualmente somministrate nel nord e nel sud globale. Io taglio velocemente perché sia il professor Allegretti che anch'io devo partire, alle 20:20 c'è un treno per Senigallia, quindi vi ringrazio tutte, ce la faccio, e alla prossima volta. Grazie, buonasera.